lo so, io e Gerardo. Lo sto dicendo, l'ho già visto la carta. E come mai questa decisione? Scusami se te lo chiedo, se mi puoi rispondere, ecco, perché vuoi trasferirsi nei Medianossi? Come ti ho fatto Cipelli? Ah, vai, vai, Paolasa, che non ci vieni tu a Ussi. Non ci credi? Ma quando parli di facciocce vuol dire che stai scherzando, no? Non credo. Ma tu non ci credi? Come dai quello che faccio? Ah, beh, sei il benvenuto, Antonio, mi fa piacere. Lo so, mi conosci, quindi ti dico una cosa è così, se no non ti avrei fatto niente. Va bene, dai, aspettiamo l'evento. Avanti già, anche tu già. Mi sa di sì. Cazzo, sei paura. Mi sono innamorato di quella bella, quella che mi ha fatto vedere. Allora che ti innamori anche tu. Poi c'è Baracchino, si è aperto un coso, un night, e ha preso niente, ha fianco al mio auto. E infatti sono andato la moglie che abita lì di fronte, che c'è un figlio, e si è messo con una di quelle, si è messo, figlio di due, quindi ha potuto dirmi, mi sono molto attenti questo figlio. Dipende, dipende. Comunque a parte gli scherzi, Antonio, ma veramente in paese vieni? Zona di Sospiano? Figlia, te lo sto dicendo, che stavo ubicato l'altro giorno. No, te lo sto dicendo. C'è una vedetta che è divisa in due. Una parte è già costruita, l'altra parte no. L'ho vista vicino a dove c'è i giardinetti. Lì sono i giardinetti che ci sono. Dove vanno a portare i bambini, qua che portano tutti, lo sai che tu, dove c'è il campetto di calcio. Allora c'erano due, allora se c'erano due, sono i giardini e Piazza Sasoletta, mai tesonente, Piazza Sardegna, scusami. E che è tutto mattonato, ci sono pochi alberi, tu sei andato lì. Esatto, è mattonato, sì. Ma poi di petto adesso comunque quello che sia, comunque siamo mattonelle staccate in questo caso, là. Tu sei in via Sardegna, e ok, una traversa di via. Via Europa, dove sei andato tu al bar, il bar Europa. Ah, in quella zona lì è la casa. Esatto, infatti che mi faccio così, io mi metto le cose a inventario. Sto dicendo, l'ho vista, è veramente bella quella casa. Adesso vediamo se ci vediamo d'accordo, me la prendo io, se non si abbia in cura. Ah, vabbè, diciamo è tutto da definire, poi si definisce, tocca smontare l'antenna. Tocca smontare l'antenna, è diviso in due quella palazzina, una parte è abitata, l'altra parte no, è la peniera, ossia è un villone da 100, no, di più di 100, sarà 224 quello che è. No, sinceramente non riesco a capire quale sia la casa. Comunque, diciamo, tu c'è la tua parte indipendente col tuo tetto alla fine. Comunque sì, è bella quella casa, lo sto dicendo. Ma oggi volevo essere a Ussi qua, la verità, perché ho rifiutato io stasera, per un po' di pulizia, no? Sarei fatto schiaccia, ma mi serve il posto della mattina presto, sarei fatto schiacciare stanotte. Non l'ho fatto per rispetto, perché sono a casa, se no ti avrei fatto schiacciare stanotte, se avrei tentato la casa tua, ti avrei trombato stanotte. Bene, avanti già, parla tu Antonio, era ancora arrabbiato. Antonio, ma vieni tu? No, io no, ma lui penso di sì. Sinceramente? Non è l'onfio. È d'acqua perché i semi salati li fanno bene, Antonio, acqua, Sì, avevo di acqua, ce n'è lì. Allora, di avevo di acqua. Senti questa frase che c'è su Facebook, chi ruba poco fa in galera, chi ruba tanto fa carriera. È vero, l'ho detto. Dimmi di no, tu vai alla Sisa, ruba parecchio e non ti metti in galera, ruba appena e te la salvi come fa Berlusconi. Berlusconi non si rubò mai i 30, lo condanno, ma che condanno è? Non vale niente, lo sai, perché va a prescrizione, ci passano anni, 4-5 anni, quindi lui si stava già, lo sai. Mi sto guardando in Croazia come fanno a mettere i denti. Ma fanno mettere i denti finti. Come devo ti fare la dentiera che fai in Croazia? No, non la dentiera. Quello con la vite, proprio incastonata. E quello che basta pochi soldi, lo sai. Poi ci vengono di andare a controllare cose del genere. A rischio però, lo sai, no? Sto guardando tutto un sito, c'è il dottore, tutto quanto quello che fanno, come lo fanno. Se ci mettono tipo tassino. Scusate un attimo, è venuto mio fratello, mi devo assentare 10 minuti. Va bene, prendetemi il caffè. È indovinato, Asi, ogni volta viene caffè e sigarette se ne fa. Piglia il caffè, piglia. La malta di mio padre. Io mi sarebbe prendere altro bambino così, invece se ne stanno lì da quel coso. Almeno lui viene, a cercarmi. Suona e la porta è aperta. Per qualche altra persona che è ancora incazzata. Invece lui a due baci. E infatti va bene, dai. Comunque, ci sentiamo dopo. Ehi, dai, non ve la prendete per cazzate. È stato solo un malinteso e basta. Sì. Antone, i drink di compare Antone. Ma cavolo, la allora ricissima. Sto leggendo. Comincia la prima capolavora a essere grata di diretta del palazzo. Quindi se c'ha due palle, faccio un... Non la fa nessuno, la verità, perché non la fa nessuno. Deve sapere che va nella sola. Certo, se vuole un antonello, mi può prendere a passare, quindi mi accompagna a Ursi. Siamo a posto. Lo fa lui, secondo me non lo fa. Quindi, lo giorno io. Sola è Sì, anche sì. È sola. Infatti non sono salito io più che altro per non dire male più che altro. Comunque stasera si vuole sola, c'ha il bambino, Daniele e due c'ha anche Alessia e l'altra, quindi sono in tre. A un certo punto. Vabbè dai, anche il marito, c'ha i bambini. No, stava volando Giancarlo stasera. C'è il bingo. Al bingo la sua? Sì, fa vigilante. Esatto, sì. Sì, va. Se Davide non vesce il vigilante, che prima non vede. Esatto. Lavoro per altra gente. Quindi se dovesse essere, come dico meglio, posso anche abbassarmi per dire. Mi prendo poi mi passo la mia sorella, mi accompagna a lui. Ma ho capito se c'è la giornata. Se c'è ancora di riparare la cosa del genere. Ma non lo fa, perché sono sicuro che non lo fa. Capito? Oh. Lo so io, mi preoccupare. Io mi sono messo, adesso mi ha messo l'occhio per dire. Ci vuole poco, sono 23 ore. A mezzanotte io telefono gratis, la stasera stessa, perché c'è la... il governo, non mi ricordo cosa, quello che sia, e si telefona gratis. Fino alla mattina, se si viene domani sera, a mezzanotte. Tale però si assicura che prima che tua sorella non sia dormita, se la vedi che dopo non ti apre. Si chiama mi apre, ma sono anche preoccupato. Non sembra vero. Comunque, se mi iscrivo, se volete essere chiamati completamente, seguite. Vabbè, quello è il prossimo lavoro, vabbè. Tutto in chiera. C'è uno che ha fissato con lei, ma ha fissato me. Non lo vuole davvero, ma perché non ti molla, perché non ti molla? Devi venire con me, Da lì il culo, detto. Ma chi? Con la Ferrari? È pistato, non la te la regà. Davvero, Troppo fregato. E cosa frega, non ce la fa a fregare niente a me. Siete una coppia salda. Questo Dio sì, fino adesso 12 anni, non so io. Quindi, no, ne ho passato di cozzoni, diceva quello. Che si chiamavano furbi, che si chiamavano i soldi, devi comere un giusto Dio, quasi tanto, quando era. E poi è andato a controllare, c'era un cazzo, quindi. Non ha capito, non è che non l'abbia capito. Quello che fanno una polacca, una brasiliana, quello che è, non capisce niente. C'hai altro radio attaccato? C'hai altro radio attaccato? No, c'è un televisore in camera da letto. Lo senti? Certo, si sente, pensavo che fosse qualche altra frequenza attaccata. No, c'è il televisore in camera da letto. Ma la sima, che altro non è che lo vado io. Si sente? Ehi, si sente bene. Esagerato. È il mio, figlio di giù. Aspetta Antonello, sì? Antonello, ci sei? C'è il fratello a casa, sta facendo il caffè. Ah, non siamo a posto. Allora, ti chiamo, c'è proprio. Kentanos, in sardo, con la K si scappa. Sì, perché? No, perché sto mandando gli auguri dei paesi. Dice il compleanno, tanti auguri a Kentanos. C'è vabbè. Mettiamo adesso che mi ha Giovanni, mi sta sentendo, Giovanni al telefono. Io sono la sentita, poi se me li conosci. Già, ti dico, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, se quindi. Non trovo un cazzo. La chiamo Coca-Cola, mi ascolti. Vabbè, mi aiuto la macchina lì che nessuno lo conosco io qua a casa. Gli ho già detto che non è un regalo che ho fatto io, quindi no, quello che rimane sempre suo. Uno sembra uguale, lo sai, è una cosa sua. Neanche se è cognato, cioè se mi è cognato a dire no, bella, no, non si muove da apparecchio. E non so e basta. Infatti. Andrà bene. Lui a me ha fatto una pizza con le salsicce, ma è virtuale. Salsicce? Ah, vabbè. Ma ce la fai, no. Lascia perdere. Meglio la metterò a mare al limite, se la vuoi, senza niente, cioè una margherita, quello che è, una... non c'è, diciamo. Cappa, se così virtuale ci sono, io la preferisco davvero. Lo so. Antonello, ci sei, sei sparito. Ma adesso sta pensando male. Mm. Così mi giuro, magari anche domani, ok? Serata, ciao. Non ho capito nulla, cosa hai detto? Che ti ho... sono andato, dimmi... ciao. Ho detto che tutti vedono, ma sono stati a dormire, Gustavo. Mi sono fermato a quando entri, dimmi. magari anche domani ci sentiamo con questo canale. Ciao ciao. D'accordo, senta, io le sento, il discorso è quello. Se chiamo comunque tu io per un momento, beh, senta meglio così, non mi trovo male, non c'è problema, già glielo dico. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ci sentiamo domani.